Quando è cominciato il processo Andreotti, una decina di giorni fa, ero all'estero. E così mi è stato risparmiato il clamore mediatico che, a quanto mi dicono in patria, ha accompagnato l'evento, tutto quello che ho appreso da sobri articoli in taglio basso in prima pagina nei quotidiani in lingua inglese che riuscivo a trovare, era che l'Italian former PM, Mr. Giulio Andreotti, 76, affrontava i suoi giudici per difendersi dall'accusa non di essere referente politico della mafia, che è un'espressione che il medio lettore anglosassone difficilmente avrebbe capito, ma di aver protetto e sostenuto l'attività della mafia dalla sua posizione di potere. Che in fondo è un'interpretazione abbastanza ragionevole del senso di quel processo, anche se in Italia naturalmente ci si affrettava a precisare che non per la sua attività di governo il Giulio Nazionale era sottoposto a giudizio, ma per quella di leader politico e capocorrente, una distinzione sottile che sembra ispirata più alla necessità della procedura che a una logica qualsivoglia, e che comunque il processo in questione non aveva proprio nessuna caratteristica del processo politico, il che avrebbe probabilmente confermato i cronisti e i corrispondenti stranieri nell'opinione largamente espressa nei loro articoli, per cui l'Italia è per definizione il paese di Machiavelli. Perché naturalmente il processo Andreotti è un processo politico, ne ha tutte le caratteristiche, e prima di tutte ha quella di colpire con una forte valenza simbolica un esponente tipico di una classe dirigente, se non proprio sconfitta, almeno preterita, o comunque sottoposta a un ricambio radicale, da che mondo e mondo i politici, qualsiasi nefandezza possono aver commesso, vi si processa solo quando hanno perso il potere. Prima che si dica sull'indipendenza della magistratura, succede piuttosto di rado. Ma visto che il ricambio, per quanto radicale, della classe dirigente non significa necessariamente una rottura nella continuità del sistema politico, Andreotti non viene processato per quello che manifestamente ha fatto, che probabilmente ce ne sarebbe d'avanzo, ma per quello che si sostiene che abbia fatto in occulto. Non per essere stato un pilastro del sistema democristiano, che questo sembra non interessi a nessuno, ma per aver fatto gli interessi della mafia, il che in un certo senso è un modo d'affermare che gli interessi della mafia e quelli del potere democristiano, ma non solo di quello, e sono per natura distinti, che mescolarli è un fatto eccezionale, anzi delittuoso da processare. Che è una tipica petizione di principio che si concilia pochissimo con la consapevolezza storica che in genere si ha del fenomeno. E stringi, questo significa, in parole poverissime, che l'ottimo Giulio rischia di essere il classico capro espiatorio, la cui auspicata condanna può significare l'assoluzione di molti, moltissimi altri. Beh, mi direte voi, se l'è voluta? Beh sì, se l'è voluta, certo, e più di quanto appaia a prima vista, visto che l'impianto dell'accusa si regge in buona parte sulle delazioni dei pentiti, cioè su quella legislazione premiale di cui, ai tempi della solidarietà nazionale, i governi Andreotti sono stati largamente responsabili. Chi la fa l'aspetti, però poca soddisfazione possiamo trarre dal fatto che certe procedure si siano ritorte contro chi le ha volute, soprattutto considerando che, visto come si sta mettendo la faccenda, qua stiamo correndo il rischio, dopo tante lotte, dopo tante speranze, di essere costretti a sperare che Andreotti sia assolto. Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita, quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrerà.